Non sempre serve un telescopio per guardare meglio il cielo. Oh, oh, oh, oh. Concentra la luce visibile, magari sembra più sereno. Oh, oh, oh, oh. Cambia visione, cambia prospettiva. Non c'è né regola né alternativa, ma se continui a guardare con gli occhi di sempre non vedrai mai niente. Dai, la luna come una stroboscopica e noi siamo orbite sopra l'oceano ed una sfumatura di luce proelettrico. La luna è come una stroboscopica e non mi importa cosa pensi di me, non mi importa cosa pensi di me. Non sempre asteroide per illuminare il cielo. Oh, oh, oh, oh. Cambia visione, cambia prospettiva. Non c'è né regola né alternativa, ma se continui a guardare con gli occhi di sempre non vedrai mai niente. Sai, la luna è come una stroboscopica e noi siamo orbite sopra l'oceano ed una sfumatura di luce proelettrico. La luna è come una stroboscopica e non mi importa cosa pensi di me, non mi importa cosa pensi di me. Cosa pensi di me? Non mi importa cosa pensi di me.